L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare la nostra Europa da tanti punti di vista diversi. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, il sito del network al quale apparteniamo, che tra l'altro ha lanciato anche, ve lo dico subito, ha lanciato un sondaggio il cui titolo è una provocazione, ma neanche tanto, visti gli altri sondaggi che abbiamo letto in questi mesi. La domanda è: perché l'Europa è diventata così impopolare? Si chiama Big Crunch 2016, un sondaggio che vedrà coinvolti i cittadini di tutta Europa in collaborazione con Euronet Plus. Insomma, avrete la possibilità di far sentire la vostra voce. Radio24.it è il sito da dove troverete il link per votare poi a questo sondaggio. Chiocciola Federico Taddei invece Twitter e Facebook per seguirci e anche sui social network, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che toccheremo. Una settimana drammatica, una settimana che si è aperta con il tragico incidente che ha visto coinvolte tante ragazze Erasmus, una settimana che ha visto Bruxelles, che comunque è il cuore dell'Europa, la città che tante volte abbiamo toccato con i suoi attentati, e partiamo proprio da lì. Je connaissais pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Partiamo da Bruxelles, lo facciamo con uno studente Erasmus, una sorta di filo conduttore di questa drammatica settimana. Diamo il benvenuto a Vincenzo Di Lisa, studente di scienze socio-antropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale all'Università degli Studi di Perugia, attualmente in Erasmus, appunto nella città belga. Ciao Vincenzo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, salve, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto, da quanto ti trovi a Bruxelles? A Bruxelles sono qui dal 1 febbraio per il progetto Erasmus. Mm-hmm. E niente, frequento l'IEX, che è una scuola di giornalismo e comunicazione. E niente, adesso dopo questi fatti di Bruxelles la situazione è comunque un po' più, diciamo, meno distesa rispetto a una settimana fa. Ovviamente dopo questi fatti. Certo, e tu hai letto abbiamo trovato una tua lettera, la sorta di una lettera di uno studente Erasmus. Sì. Dove raccontavi queste ore, raccontavi anche il dopo, raccontavi le tue reazioni, una fotografia di uno studente, di un Erasmus, di uno che ha il valore della mobilità e si trova sotto attacco. Qual è stata la tua reazione a caldo, al di là della paura, ovviamente? E quali sono state le riflessioni successive nei giorni, appunto, che hanno seguito questo attentato? Allora, inizialmente, quando abbiamo preso in casa, no, queste notizie, non ci siamo resi conto subito dell'accaduto, perché comunque abbiamo letto solamente dell'attentato all'aeroporto, che è distante qualche chilometro dove mi trovo io. Poi abbiamo letto una seconda notizia della metro, che io ho preso anche alcune volte in passato, in questo mese, e la situazione era sempre più, diciamo, tesa, soprattutto anche in centro, perché si poteva aspettare addirittura anche qualche altro tipo di attacco, come per esempio a Parigi, no? Come è successo, come è già successo. Però subito dopo ho visto che comunque la gente usciva, aveva voglia di ripartire già nel pomeriggio. Sì, il centro, come ho già detto in questa lettera, era presieduto da un gran numero di forze di polizia, da un gran numero anche di giornalisti da parte di tutto il mondo, tutte le parti del mondo, però vedevo, mi ero più concentrato sulla gente normale, sui bruxellesi, e vedevo loro che avevano voglia di ricominciare. C'era appunto, come ho già detto, una signora, una donna, una nonna con una bambina che andava passeggiando, oppure le donne che facevano spesa, uomini d'affari che comunque andavano a piedi, andavano girando. Comunque la città, soprattutto il centro dove abito io, era, non dico ripartito al 100%, perché comunque la metro era bloccata e il sistema di trasporti era, comunque andava a singhiozzo. Certo. Quindi insomma, però una risposta immediata, non tanto una prova di forza, una prova di coraggio, quanto proprio questo desiderio di ripartire immediatamente, di ritrovare una normalità. E voi invece, ragazzi Erasmus, voi studenti, come avete risposto? Allora, in diversi modi. C'è da dire che io conosco tuttora un ragazzo Erasmus spagnolo che si trovava lì all'aeroporto dove è successo questi fatti, e lui giustamente è stato rimasto scioccato ed è voluto ritornare nel proprio paese, Spagna. Sì. Posso capire questa reazione, ovviamente, perché è normalissima, ma come me, come anche tanti altri ragazzi Erasmus, vogliamo rimanere perché, ripeto, questa situazione, questi fanatici, come ho già detto, non è giusto che debbano fermare lo studiare, il voler studiare di noi ragazzi, di costruirsi un futuro migliore. Io penso che chi è rimasto lo fa soprattutto per questo, perché l'occasione dell'Erasmus è un'occasione unica, appunto, che mette in comune diversi modi di pensare e di agire. E appunto l'ho visto proprio sulla mia pelle, questo modo di pensare e di agire. Cioè, ci sono ragazzi, una ragazza norvegese che è voluta rimanere, ragazzi spagnoli invece che sono voluti ritornare. Però, ripeto, non condanno chi va via, né condanno chi rimane. Sono scelte e ripeto, certo, non è giusto dare un giudizio preciso su chi va e chi rimane. Ripeto, sono voluti rimanere ragazzi che era impensabile che dovessero rimanere, altri invece che ho sempre visto come persone forti, persone abbastanza forti, che sono ritornati subito a casa. Quindi reazioni sconvolgere. Certo, reazioni diverse, però insomma la volontà di continuare. Grazie davvero Vincenzo Di Lisa, ve lo ripeto, studente dell'Università degli Studi di Perugia, attualmente in Erasmus a Bruxelles. In bocca al lupo per la tua avventura studentesca. Ciao, buona grazie, Pasqua. Grazie, ciao, mille, ciao. Ciao. Un Europostit adesso, poi ci fermiamo per il traffico e dopo ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. Spettacolo La Parola Padre. Attenzione appassionati di teatro. Al Teatro Piccolo Eliseo di Roma dal 30 marzo al 10 aprile debutta lo spettacolo La Parola Padre con la regia di Gabriele Vacis. Si tratta di uno spettacolo dalla natura profondamente internazionale, prodotto da Cantieri Teatrali Corea nell'ambito del progetto europeo Archeo.es. È la storia di sei giovani donne che si incontrano a uno dei tanti crocevia del presente. Tre sono italiane, una è polacca, una è bulgara e una è macedone. Tutte parlano più o meno inglese, tutte hanno conti in sospeso con la loro patria, con i loro padri. E si confrontano sulle esperienze e ricordi a partire dalle differenze che le dividono e dalle similitudini culturali che le uniscono. Per informazioni su date e biglietti, visitate il sito del teatro teatroeliseo.com. L'altra Europa. We always have a choice, or at least I think we do. We can always use our voice. I thought this to be true. We can live in fear, extend ourselves to love. puntata particolare, quella di oggi, dell'altra Europa. Solitamente ci conoscete, ci fermiamo per raccontare quella che è l'Europa, delle possibilità e delle opportunità. Oggi ci sembra assolutamente doveroso fermarsi invece anche per riflettere, per ragionare, per cercare di portare un nostro contributo alle tante parole che si sono accavalate in questi giorni. Abbiamo aperto con questa testimonianza in diretta da Bruxelles di Vincenzo, un ragazzo Erasmus, e lui stesso ha detto parole come paura, coraggio, reagire, non fermarsi. E queste parole sono anche un po' il cuore della riflessione proposta da Michela Marzano, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Parigi, René Descartes, che abbiamo qua con noi. Buongiorno Marzano, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Paura e coraggio. Come convivono oggi queste due parole? Dovrebbero convivere forse un po' meglio, nel senso che in realtà si parla molto della necessità di aver coraggio, di mettere tra parentesi la paura, ma in realtà il coraggio non vuol dire negare la paura. Questo noi lo sappiamo già dai tempi di Aristotele. Aristotele diceva: una persona coraggiosa non è chi non ha paura, ma chi, nonostante la paura, decide di andare avanti perché crede fermamente nei valori per i quali combatte, e quindi non si lascia chiudere a chiave all'interno della paura, che diventa poi angoscia e che diventa paralisi. Il senso di quello che io avevo voluto scrivere è un po' legato alla tendenza a minimizzare la paura che le persone possono provare, perché in realtà il coraggio poi lo si trova, ma se e soltanto se parte dalla constatazione della paura, che è umana. Perché di fatto, quando ci si sente in pericolo, quando si immagina che possa arrivare a chiunque di noi trovandosi in metropolitana o in aeroporto, è ovvio che la reazione che si ha è comunque una reazione di paura. Quindi nominiamola, integriamola, e poi a quel punto troviamo il coraggio per reagire, per affrontare la situazione. Anche perché probabilmente non riconoscere questa paura, non darle un giusto nome, e lo stesso vale per il coraggio, può diventare uno strumento in mano, uno strumento pericolosissimo in mano del populismo. È facile poi cavalcare la paura, o è facile cavalcare la parola coraggio camuffandola poi per altro, per muri che si alzano, per decisioni drastiche? Sì, assolutamente. Questo anche è qualcosa che la storia ci ha insegnato, lo diceva già Machiavelli: chi strumentalizza la paura degli altri diventa il padrone della loro anima. Quindi in realtà nominiamola, per permettere a chiunque di poterne parlare tranquillamente ed evitare che si trovino poi delle soluzioni che sono delle soluzioni effettivamente populiste o addirittura poi anche dittatoriali, perché nel momento in cui si cavalca l'onda della paura, che non viene nominata e che non si può nominare sulla sfera pubblica, poi il rischio è quello di trovarsi chiusa all'interno di un sistema in cui, in nome della sicurezza, viene poi meno anche la democrazia, mentre in realtà democrazia e sicurezza non sono in contraddizione, anzi, la sicurezza è una delle libertà fondamentali su cui si fonda e si basa proprio la nostra democrazia. Dopo i fatti di Parigi, lei aveva confessato di avere paura. Questa paura è riemersa in questi giorni? Ma allora, dopo i fatti di Parigi, in realtà io ero più su una reazione neghiamo la paura, e questo poi cerco anche di raccontare, cioè ero molto sull'onda che consiste a dire la vita riprende subito. Si era andati subito in università, si erano incontrati subito gli studenti, si diceva la vita va avanti come prima, non lasciamo il terrore conquistare zone di libertà della nostra vita. Dopodiché, come sempre, quando uno fa finta che la paura non ci sia, riemerge. E quindi ho deciso che in questo momento forse la strategia deve essere differente. Nominiamola, accettiamola, accogliamola, non facciamo finta di nulla. E poi certo, battiamoci affinché la vita possa ridiventare normale, possa riprenderle, ma creiamo le condizioni, perché altrimenti si crea una specie di frattura tra un discorso elitario portato avanti da alcuni intellettuali o da alcuni politici che dicono non c'è nessun problema, andiamo avanti, e poi il resto delle persone che dicono ma in realtà non siamo più ascoltati, nessuno ci guarda, nessuno vede la situazione in cui ci troviamo. Siccome poi di fatto dietro tutto questo che sta succedendo c'è proprio una frattura culturale che è lì, che è presente e che si esprime in maniera drammatica, cerchiamo anche di uscire questa frattura e di affrontare il problema non soltanto da un punto di vista effettivamente di sicurezza, ma anche poi da un punto di vista culturale. Saremo meno liberi, dovremo abituarci a questo? Ma dunque, io spero proprio di no, perché il discorso è che cercare di portare avanti delle misure di sicurezza, dei controlli in aeroporto, io ero anche stupefatta subito dopo gli attentati di Parigi a un certo punto del fatto che arrivando in Italia non ci fosse nessun tipo di controllo. Ora, per carità, non si tratta affatto di rimettere le frontiere, questa poi è la reazione populista, la reazione nazionalista che non porta da nessuna parte, perché l'unico modo è cooperare e andare avanti insieme. Però reintroduciamo una serie di controlli, vediamo soprattutto chi entra e chi esce dallo spazio Schengen, dopodiché queste misure non devono derivare poi verso la privazione della libertà, perché ovviamente il rischio è quello di ritrovarsi in una situazione come nell'America di Bush, in cui addirittura erano state reintrodotte delle misure come la tortura, con degli intellettuali addirittura che giustificavano l'utilizzo della tortura in nome della sicurezza. Ora, sicurezza e libertà non devono essere contrapposte, anzi, io sono tanto più libero quanto più sono sicuro che la mia vita potrà essere protetta da uno Stato che mi permette a quel punto di effettivamente essere poi libera e poter costruire il mio progetto di vita. Grazie davvero a Michela Marzano per queste riflessioni e buone feste, a presto. Buongiorno Michela. Grazie anche a voi, arrivederci. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Sora Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid. Esiste una soluzione culturale al terrorismo. Vi proponiamo ora un'altra riflessione sempre su questo filone dei giorni dopo Bruxelles. Abbiamo il piacere di avere con noi Wael Farouk, docente presso l'Istituto di Lingua Araba all'Università Americana del Cairo e all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Abbiamo letto un suo ottimo scritto su Vita. Esiste una soluzione, questa soluzione è anche culturale al terrorismo islamico? Prima io non mi piace questo terrorismo islamico, mm-hmm. E infatti la risposta deve essere soprattutto culturale, perché la risposta di sicurezza da 2004 a Madrid, 2005 a Londra, e non ha fatto niente, non c'è novità su quello che succede a Bruxelles. Per 10 anni siamo sempre nella zona di reazione, non possiamo fare un passo avanti perché manca questa soluzione culturale. E secondo me l'unica soluzione di questa criminalità nel nome dell'Islam è dare più spazio a musulmani europei. Chi sono i musulmani europei? I musulmani europei sono la maggioranza assoluta di musulmani che stanno vivendo in Europa, che praticano loro fede senza trovare nessuna contraddizione fra loro fede, la pratica di loro fede e la cultura europea. Mm-hmm. Sono tantissimi, sono vostri vicini a casa, sono vostri colleghi, nostri colleghi al lavoro. Vediamo loro in ogni angolo delle città europee, ma sempre l'Islam e questi musulmani sono ridotti a questi gruppi di malvagi che hanno trasformato l'Islam a una ideologia invece di una religione. E il problema è l'Islam politico, i gruppi che credono che l'Islam è un progetto politico e guardano la violenza come l'unica strada di applicare questo Islam. Il problema soprattutto culturale, perché parliamo sempre su un Islam in Europa, ma c'è un altro Islam, l'Islam europeo. Professore, ma gli esponenti di questo Islam europeo si fanno sentire, si fanno conoscere? C'è la ricerca di momenti comuni, proprio di conoscenze, di scoperta reciproca? Sì, ci sono tantissimi esempi di persone, ma io anche passo dalla persona alla comunità. Possiamo guardare la comunità musulmana in Croazia, per esempio, che è un paese europeo, l'unico paese europeo che non ha nessun guerrieri che combattere con l'ISIS. Perché c'è un Islam europeo in Croazia, c'è una comunità che fa parte della cultura del paese, che contribuire a questa cultura, che guarda questa cultura come parte della sua identità. E questo è l'unica strada per combattere questo. Quello che succede da Madrid, Londra, Brasile, tutte queste città, è una ideologia che può esplodere in ogni momento. Non è una battaglia contro un'organizzazione, non è una battaglia contro persone, non è una battaglia contro Stato, è una battaglia contro idea del male. Questa idea, con le condizioni culturali di musulmani in Europa, può esplodere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Noi facciamo un grande errore, ridurre l'Islam al mondo arabo. L'Islam non è una religione arabo. Infatti, gli arabi presentano la minoranza assoluta del popolo musulmano nel mondo. Ma noi, sempre questa riduzione dell'Islam al mondo arabo, che prende tutti i conflitti politici del mondo arabo qui in Europa, è quello che cercano di fare quelli salafiti jihadisti. Ma l'Islam è più grande, è un Islam europeo, una possibilità di rispondere alla storia dell'Islam, che è stato sempre condizionato dal contesto culturale e sociale. Non possiamo dire oggi che l'Islam in Egitto è uguale all'Islam in Indonesia, è uguale all'Islam in Turchia. Ogni contesto culturale e sociale ha il suo Islam. Perché non è possibile per l'Europa? Grazie. E questa è la domanda. Questa è la domanda, questa mi sembra che sia un punto davvero cruciale. Ringraziamo Well Farouk, ricordo, docente presso l'Istituto di Lingua Araba all'Università Americana del Cairo e all'Università Cattolica di Milano. La sua riflessione la potete trovare anche sul sito www.vita.it. Grazie professore, buon sabato. Grazie, buona Pasqua a tutti voi. Anche a lei. Noi ci fermiamo alla pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'altra Europa. Don't let the system get you down. Mix it to life. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook per trovarci sui social network, radio24.it oppure chiocciola Euronet Plus R24 sono le coordinate, quelle ufficiali. Continuiamo a parlare di Europa, ritorniamo a parlare dell'Europa che incide nelle nostre quotidianità, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Lo facciamo con un progetto che riguarda al 100% le città, quindi il nostro vivere giorno per giorno. Si chiama Urbact 3, è un programma di cooperazione territoriale europea, insomma questi nomi altisonanti che però alla fine nascondono veramente soluzioni in grado di, dovrebbero perlomeno migliorare la nostra vita. Di tutto ciò ne parliamo con Paolo Testa, capo area studi e ricerche dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Buongiorno Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci riesce a tradurre in cittadinese che cos'è Urbact 3? È un programma importante in realtà, perché davvero tocca la vita quotidiana di tutti quanti. È un programma che la Commissione europea ormai da diverso tempo, siamo appunto al terzo ciclo, promuove su tutto il territorio del continente. Ed è finalizzato allo sviluppo urbano sostenibile, cioè le città presentano dei progetti di miglioramento e la Commissione europea li finanzia, e questi progetti hanno il vincolo di dover essere realizzati, condivisi tra gruppi di città all'interno di network di città europee, e vanno quindi a toccare diversi paesi, diverse città, e si espandono così in tutto il continente grazie a processi imitativi, grazie alla possibilità che hanno queste città di incontrarsi e di confrontare le pratiche. Certo, perché insomma è uno dei punti di forza di questi programmi, anche far circolare le buone pratiche che possono essere appunto poi replicabili in altre situazioni. Allora, un paio di date: giovedì 31 marzo dalle ore 11 a Sala Alessi, Piazza della Scala a Milano, ci sarà un Info Day, perché questi programmi poi hanno delle scadenze annuali, no? Dove si propongono i progetti, e siamo a ridosso di una di queste scadenze? Siamo a ridosso di una scadenza, che è una scadenza particolare, perché per la prima volta il bando si rivolge anche a città che hanno già dei progetti, dei piani integrati di cambiamento sul proprio territorio, e li finanzia proprio per implementarli. Infatti il titolo del bando è proprio Implementation Networks, dedicato a quelle città che hanno già previsto delle azioni di miglioramento integrato, e quindi che toccano diverse linee di policy, da mobilità agli aspetti sociali, alle fasce più deboli della popolazione, alla tutela di categorie sfavorite, questi progetti, allo sviluppo urbano ovviamente. Questi progetti devono tenere insieme queste diverse leve, queste diverse categorie di problemi, e promuovere delle soluzioni appunto integrate. È dedicato anche questo a tutti i paesi dell'Unione, ai quali si aggiungono la Svizzera, e quindi i network, le reti di città sono davvero molto ricche. Devono essere almeno 7 le città che compongono questi network, e quindi capite come le città a loro volta sono in qualche modo forzate, costrette a confrontarsi con esperienze spesso del nord Europa, della Scandinavia, dei paesi anglosassoni, quindi paesi che tradizionalmente noi siamo abituati a vedere come più attenti alle questioni urbane e anche un po' più bravi nell'affrontare, nel risolvere i problemi che le città contemporanee hanno. Testa, ma ci può fare qualche esempio concreto di progetti attuati nelle città italiane? Ovviamente sì, il bando che andiamo a presentare a Milano giovedì non ha già delle città vincitrici. Me lo auguro. Detto, ma le edizioni precedenti, i bandi precedenti in Italia hanno portato alle città, a molte città, soluzioni davvero, davvero innovative. Ve ne faccio due, sì? dal nord al sud, dall'estremo nord, da Udine ad esempio. c'è un progetto che è tuttora attivo e molto interessante sul coinvolgimento della popolazione anziana nello sviluppo urbano, quindi promuove l'invecchiamento attivo, promuove lo scambio intergenerazionale. E lo fa ovviamente sui territori, nei quartieri, partendo dalla vita quotidiana di queste persone. All'estremo opposto dello stivale c'è Siracusa, che anche attraverso Urbact sta promuovendo un grande progetto di riqualificazione di un quartiere particolarmente critico, la Mazzarrona, dove stanno, sempre con questa logica integrata di cui parlavo prima, si stanno sperimentando azioni di trattamento fisico con la riqualificazione degli edifici, degli spazi pubblici, ma anche di innovazione sociale, quindi coinvolgimento dei giovani, degli studenti, delle scuole, fasce più povere della popolazione, in una chiave appunto di partecipazione di questi soggetti al cambiamento, che ne consente anche una durata nel tempo sicuramente più significativa. Urbact.eu, questo è il sito di riferimento. E Tess, un'ultima domanda prima di salutarci. In questi anni tanti comuni italiani hanno istituito, per esempio, l'assessorato alla progettazione europea, o comunque ci sono nuovi uffici, nuovi dirigenti che vengono utilizzati esclusivamente per creare questi rapporti, per scrivere questi progetti che non sono facili. E credo sia un salto di qualità determinante anche per la sopravvivenza dei comuni, nel senso che arrivano fondi che poi possono essere davvero utilizzati. È corretto, assolutamente, e ancora molto, devo dire, c'è da fare, perché, come giustamente detto, questi progetti sono complessi, richiedono una conoscenza profonda dei problemi innanzitutto, perché i problemi vanno individuati, almeno questo richiede l'Europa, questo richiede la progettazione, vanno individuati in modo corretto, specifico, molto puntuale. Non si può essere generalisti o scopiazzare dalle città vicine pensando che le questioni siano uguali per tutti, e allo stesso modo bisogna essere in grado di promuovere delle soluzioni efficaci. Urbact in questo senso è un programma molto potente, perché aiuta le città a lavorare insieme. Quindi sicuramente molto è stato fatto in termini di miglioramento delle competenze, ma ancora nei comuni italiani abbiamo molto bisogno di lavorare in questa chiave, soprattutto in questi anni nei quali sappiamo le risorse finanziarie dallo Stato centrale si sono molto ridotte, e abbiamo assoluta necessità di guardare anche a fonti di finanziamento alternative un po' più innovative. Certo, e servono competenze. Grazie davvero a Paolo Testa, capo area studi e ricerche dell'ANCI. Buon sabato e buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. La Commissione europea al Festival del giornalismo. Attenzione, appassionati di notizie e attualità. Dal 6 al 10 aprile 2016 torna al Festival del giornalismo di Perugia, con tanti eventi legati al presente e alla politica e ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Anche quest'anno la rappresentanza in Italia della Commissione europea sarà al Festival, con tre appuntamenti dedicati a tre temi fondamentali per il futuro del continente. Gli incontri si occuperanno infatti di investimenti a beneficio delle imprese e dell'occupazione, di ricerca e innovazione come sbocco professionale per i giovani e della grande opportunità che il mercato unico digitale rappresenta per il mondo del lavoro. Per conoscere tutti i dettagli visitate il sito della rappresentanza in Italia della Commissione, ec.europa.eu, e il sito ufficiale del Festival, festivaldelgiornalismo.com. L'altra Europa. Thank you. Europa, chiudiamo questa puntata con la cultura, col teatro, come ci piace spesso fare, uno spettacolo che era in scena un paio di settimane fa a Bologna, poi ci siamo persi per questioni di scaletta e di stretta attualità, adesso andremo a conoscere anche le nuove date. Si chiama Made in Europe, ne parliamo con Angela De Mattè, attrice, drammaturga e ideatrice di questo progetto. Ciao Angela, benvenuta all'Altra Europa. Grazie dell'invito, fa molto piacere. Un'altra Europa che tu hai scelto di raccontare in un modo anche folle, concedimi sì. questo termine. No, anzi, giustissimo, grazie del termine. Riassumici, che cos'è? Cosa hai combinato? Allora, diciamo che la suggestione parte da una cosa di cui avete parlato qualche settimana fa, sì. Che sarebbe questo New Narrative for Europe a sì. cui ho partecipato qualche tempo fa, e in particolare ho scritto un intervento nella pubblicazione e quindi ero stata alla presentazione del libro e si parlava tanto di democrazia, di pace e di libertà, che sono tre parole diciamo molto europee, molto belle, molto grandi, e la cosa che mi lasciava proprio perplessa è come io sentissi vuote, e non solo io, ma tanti artisti, filosofi, soprattutto artisti visivi che erano lì, si erano un po' ribellati a questo sentirsi legati a queste parole, come se queste parole risultassero ormai sterili e vuote. E quindi da lì e poi da altre suggestioni, che forse meno europee ma molto più vicine invece al mio vissuto, è partita l'idea di questa donna impazzita che lavora al Parlamento Europeo ma non si ricorda bene che lavoro faccia, sì. Perché ha dimenticato tutto, in particolare sono esplose le lingue, quindi lei sapeva parlare un sacco di lingue perché era molto internazionale, però avendo smarrito la sua matrice, la sua lingua madre, non riesce più a parlarne nessuna, ma le mette tutte insieme. Poi se volete vi faccio sentire questo pastiche che lei parla, che ha fatto appunto le lingue principali, cioè tedesco, spagnolo, inglese, francese, ma che in qualche modo però ha una costruzione italiana, per cui è proprio una specie di dialetto morto, diciamo così, perché poi è fatto di lingue che non sono dialettali, e quindi da qualche parte ricerca dentro di sé una mm-hmm. radice, e poi alla fine la trova, però si ribella fino alla fine a questa radice, tutte queste lingue esplodono perché lei rimane incinta, e quindi rimanendo incinta questa nevrosi scatta in quel momento lì. Ecco, poi è molto più complesso. No, ma certo. Ma è un atto d'amore o è un atto d'accusa nei confronti dell'Europa? Ma allora, diciamo che è un atto di, cioè andare a capire come è nata l'Europa, perché a un certo punto poi lei tira fuori, in questo delirio, tira fuori anche la bandiera, che poi la bandiera ha queste 12 stelle, che per qualcuno sono le 12 stelle della Madonna, e per qualcun altro sono le 12 tribù di Israele, per qualcun altro sono l'unità dei popoli europei. Quindi però diciamo che ho già detto che ci sono delle radici giudaico-cristiane che forse sono state un po' smarrite, che però, visto che i fondatori erano tutti e tre cristiani, e insomma la maggior c'era un'idea sotto di fratellanza, cioè nasce come un'idea di grande unione, cosa che si è di cultura, soprattutto in unione culturale, cosa che mi sembra si sia smarrita, ma non tanto in chi lavora in Europa, ma come noi cittadini europei, che associamo l'Europa più a parole come banche, certo. E soldi e quote e latte, diciamo così, ma abbiamo dimenticato che ci sono altre cose che hanno unito l'Europa. Quando De Gasperi, Adenauer e Schuman decidono di fondarla, c'era anche qualcos'altro che li univa. E tu insomma è certo che era un cemento fondante di questa idea. Made in Europe, Pazzi in Europa, ci sono date previste prossimamente per vederti in scena? Sì, certo, sì? Saremo a Parma l'8 aprile, poi saremo a Genova il 4 maggio e a Varese il 12 maggio, e poi faremo delle date a luglio nel Festival Estivi, Kilowatt Festival a San Sepolcro e Pergine Spettacolo Aperto il 6 luglio. Perfetto, dai, dacci un assaggio di questa lingua. Sì, che allora hai praticamente lei, quando a un certo punto va da questi psicologi nel suo delirio per trovare le lingue, lei dice, si ricorda, my work was travailler sur les paroles, I was very important, seriously, very important. Noi stavamo travagliando su un text, I had to prepare this text about right women in a certain moment, I did not recognize les paroles, sotto las letras delle parole. Io non sentivo nada. I had a sort of shock because this parole era la mia vita, my work. ma sai, continui a usare anywhere gli sparol, a tenerle con la forza. Le problemi che io perdi una después dell'altra, tu le parole del my work, questo, lei parla in questo modo, e poi alla fine ritrova il suo dialetto, che è un dialetto italiano, e mischia il suo dialetto con queste lingue, e quindi parla in un modo molto ancora più stravagante, cioè dice, je me rappelle che ho chapà insufficiente alla school, sì. e quindi è ancora più, diciamo, stravagante, e mischia questo appunto, questa visceralità, perché il dialetto poi, no, è attaccato al ventre, proprio anche come si posiziona la voce, è molto interiore, mentre queste altre parole sono esteriori ma tentano di ritrovare l'interiorità, e questo è un po' la ricerca di questo casino, che resta un casino, come noi siamo incasinati nel capire cosa siamo, qual è la nostra identità oggi. Grazie, e Angela, grazie davvero per questo assaggio, insomma speriamo poi di ritrovarci, segnaleremo sicuramente poi il tuo spettacolo a ridosso delle prossime date. Ciao e buona Pasqua, grazie davvero. Buona Pasqua. E questo augurio da parte di tutta la squadra dell'Altra Europa, ringrazio Miriam Lucchetti, Silvia Righini, Roberta Frisani, che è insomma la grande costante delle mie dimenticanze con i tecnici. Ancora buon sabato, ancora buona Pasqua. Da Federico Taddia.